as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo di nuovo in onda, finalmente, 2024, nuovo anno, il Pane e Rose è tornato. È un po' che non registriamo una puntata del Pane e Rose, ci sono state le vacanze di mezzo, ci sono stati un po' di problemi, tantissimi impegni sindacali, nel mese di dicembre siamo stati oberati di impegni, e oggi ritorniamo con una puntata che in realtà avremmo dovuto fare a novembre. Si è svolto a Roma un seminario il 7 novembre, precisamente sull'istituto delle 150 ore. Quest'anno sono 50 anni di questo istituto, un istituto importantissimo. Abbiamo intervistato Tommaso Cerusici, che è lavora all'archivio storico FIOM nazionale. In questo seminario sono intervenuti Eloisa Betti dell'Università di Bologna, Pietro Causarano dell'Università di Firenze, Monica Dati, sempre dell'Università di Firenze, Edmondo Montali della Fondazione Di Vittorio, Andrea Ranieri, famosissimo dirigente CGL che veramente l'ha vissuto queste 150 ore, Italia Romero dell'Archivio Storico CGL Nazionale. E, insomma, e poi c'è stata anche una nel pomeriggio ci sono stati personaggi come Francesco Sinopoli, Vincenzo Bavaro, Silvia Ciuccovino, Matteo Gaddi della Fondazione Sabatini, c'è stata Francesca Redali, Mirko Rota, che è dell'ufficio responsabile dell'ufficio sindacale FIOM, e con l'intervento alla fine chiaramente di Michele De Palma, visto che si è svolto in FIOM questo bellissimo seminario. Questo seminario si è parlato tantissimo di quello della storia, dei 150 ore, di cosa sono state le 150 ore per l'Italia e per i lavoratori metalmeccanici, e si è parlato anche di quello che poi come sono cambiate e anche in parte di quello che si sta facendo adesso per quanto riguarda la formazione dei lavoratori. Io vi dico che ascoltatevi l'intervista, da lì capirete benissimo l'importanza di questo istituto e quanto per noi metalmeccanici sia stato qualcosa di fondamentale. Abbiamo deciso di fare questa puntata, abbiamo deciso di andare al seminario e di intervistare Tommaso, di seguire il seminario attentamente, perché riteniamo che la formazione di un lavoratore metalmeccanico negli anni 70 ha fatto la differenza. I lavoratori metalmeccanici hanno chiesto di essere formati, perché un lavoratore istruito, un lavoratore con una cultura avanzata è un lavoratore che è più difficile. Puoi prendere in giro, puoi schiavizzare e puoi togliere i diritti. Questo non è sempre così, però è certamente importante. E certamente questo fa fare un salto avanti enorme a tutta la classe lavoratrice italiana, ma in tutto il mondo accade questo. Ora, quest'anno poi ne parleremo nelle conclusioni. Iniziamo con questo buon auspicio, perché abbiamo bisogno veramente di una classe operaia combattiva, e le 150 ore sono state ottenute con la lotta. Adesso nell'intervista è chiaro questo punto. Andiamo subito a sentirci un pezzo musicale e poi andiamo a ascoltare Tommaso. A dopo, le conclusioni. Tiro calcio urlando, oggi andate via! sulla panchina dopo averli legati e posizionati sui binari. Sono un treno che viaggia sulla quarantina, ma non ho ancora smaltito l'adrenalina. Dovrei essere pacato come De André, sto come il rapper André a 3000, con la voglia di saltare su tutti i palchi. In questa gabbia di matti sono tutti falchi e ricevono gli applausi, sì, ma imbarazzanti come quelli dopo gli atterraggi. E tu mi chiedi fammi nomi, sì, bravo, il dottor Zivago mi ha detto sì, vago. E ora mi ritrovo gli elettrodi su un capo, i russi che urlano su bravo, ritratta le fede. Dicono che devo calmarmi e respirare un po' di più. Dicono che devo staccare il cane da quell'auto blu. Dicono che gli uomini del calcio mali, la testa in giù, non vanno bene, va bene, va bene. Ma poi dicono che non devo accomunare fede e schiavitù. Dicono che dovrei baciarvi a stampo come le tatu. Dicono che mi spediranno in cielo come una. Allora, ciao Tommaso, bellissima iniziativa, siamo qui oggi a Roma il 7 novembre al seminario in ricorrenza delle 150 ore, sono 50 anni, abbiamo ascoltato un bellissimo seminario in cui ci sono stati più interventi di vari illustri docenti che ci hanno spiegato quello che, cioè, l'evoluzione delle 150 ore, la storia. Tu hai introdotto questo seminario, da te vogliamo capire un po', spiegaci un po' l'iniziativa di oggi, le cose che si sono dette per noi, per chi ci ascolta in radio. Sì, buongiorno a tutti, o buonasera, dipende quando andrà in radio, all'una e mezza, ora di pranzo, buon pranzo a tutti. E, l'iniziativa di oggi sulle 150 ore sicuramente ricade dentro un contesto di anniversario, cioè sono i 50 anni, ma non l'abbiamo voluta e pensata solo come un'iniziativa di diciamo ricordo, ma come un'iniziativa che problematizzi anche oggi il tema della formazione, del diritto alla formazione permanente dei, insomma, lavoratori, tema rientrato anche con l'ultimo contratto del 2020, dopo un periodo, insomma, di stasi e di crisi di questo istituto, di crisi, di, insomma, modifica di questo istituto. Beh, insomma, sicuramente gli anni 70 sono anni, come posso dire, complessi e importanti da questo punto di vista, in cui c'è un protagonismo operaio molto molto diffuso, che dalla fabbrica, cioè da dopo il contratto del 69, in cui, no, le 40 ore, il diritto di appunto assemblea, i consigli, si passa a un meccanismo per cui dalla fabbrica si può estendere questo potere tra virgolette operaio alla, diciamo, società. Il tema della formazione a quel punto diventa centrale, e quindi il tema della formazione è un tema centrale anche oggi, è stato un tema centrale negli anni 70. Certo, negli anni 70 c'era un tema di, appunto, potere, di potere operaio sia rispetto al ciclo produttivo, quindi di conoscenza di cosa avveniva in fabbrica, sia di emancipazione a livello sociale insomma, la classe operaia. Consideriamo anche che con le 150 ore, oltre ai corsi monografici nelle scuole, nelle scuole secondarie, nelle università, c'era un tema di recupero dell'obbligo scolastico per quanto riguarda la licenza di terza media, perché con la, diciamo, riforma del 62 la scuola media diventa obbligatoria, quindi anche qualora i singoli lavoratori si fossero dovuti ricollocare, a quel punto il diploma, insomma, era una cosa, non dico fondamentale, ma insomma molto importante. Considerate che fino al 1969 il 70% di chi lavorava in fabbrica non aveva licenza media, eppure riforma era passata già 7 anni prima, quindi insomma, certo. Quindi c'era un tema di, insomma, per cui sono state utilizzate le cifre precise non le ho qui in questo momento, ma complessivamente si parla di 1 milione di, diciamo, lavoratori, di cui metalmeccanici un po' sotto il 500.000, che riuscirono a prendere la terza media, quindi è una cosa di massa. Parliamo di, insomma, un settore che in quegli anni occupava circa 1.300.000 lavoratori del settore privato e circa 300-400.000 nel settore pubblico, perché ai tempi c'erano le, diciamo, partecipazioni statali, certo. Quindi da l'Italsider ai cantieri, insomma, era tutto pubblico, partecipazione statale ex Siri. Quindi ripeto, l'iniziativa di oggi vuole guardare al passato quello che è stato, ma vuole anche andare al futuro, perché chiaramente i meccanici a fine anno presenteranno una piattaforma per il rinnovo del loro contratto nazionale. Questo tema della, insomma, formazione ci sembra abbastanza centrale per quanto riguarda la piattaforma e le, insomma, richieste che alla controparte verranno poste. Francesca Redavid nel suo intervento ha posto fortemente il tema di queste 24 ore come istituto contrattuale di, appunto, formazione individuale, ma slegate dalle tematiche aziendali, cioè da quello che l'azienda vorrebbe, su cui tutti, insomma, formarsi come diritto soggettivo. Anche questo è figlio di quella storia, ma direi che buona parte delle conquiste politico-sociali comunque sono figlie o hanno figliato da quella storia, sono venuti fuori, ne stiamo ragionando con i nostri ospiti, insomma, da il, diciamo, ragionamento sulle aziende sanitarie locali, al tema del femminismo, al tema della, insomma, salute e sicurezza in fabbrica. Sono tutti temi che le 150 ore, soprattutto per quanto riguarda i corsi monografici, che ricordo erano comunque gestiti direttamente dai consigli di fabbrica, cioè non era una cosa gestita dal sindacato provinciale, cioè i consigli di fabbrica con alcuni insegnanti e alcune scuole pubbliche, perché contrattualmente era definito che si facessero in scuole pubbliche, avevano definito programmi e, appunto, percorsi che affrontavano tutti questi temi, che poi erano i grandi temi degli anni 70, per cui, come ha detto giustamente Ranieri, Andrea Ranieri nel suo intervento, beh, in quegli anni chiunque voleva provare a trasformare un po' il nostro paese doveva fare i conti con i meccanici e con la loro contrattazione, non solo come numero, cioè come settore produttivo, non vista numerico, comunque era grosso, l'Italia è sempre stato un paese manifatturiero, ma anche come centralità e indirizzo politico a livello generale, di classe, avremmo detto una volta, insomma. La cosa che mi ha colpito nei tre primi interventi c'è stato il fatto che si è spiegato oggi che la conflittualità era molto molto forte, c'era un governo che non riusciva a gestirla, non dava spiegazioni, c'era una situazione conflittuale in cui gli almeccanici hanno avuto una forte presenza insieme agli studenti, insieme alla società civile. Questo ha portato sì che queste 150 ore rispetto agli altri paesi in cui c'erano già delle ore di permesso per studiare sono state alternative, perché non era, per quanto riguarda la formazione professionale o il diritto alla formazione sindacale, ma era per la crescita culturale del lavoratore. Assolutamente sì, tornando a quello che hai detto prima, considera che nel raggio di pochi anni cambia il vento. Io per lavoro, insomma, facendo l'archivista, mi occupo anche di foto e immagini, le foto molto spesso parlano di più. Se tu pensi che a inizio degli anni 50, Fondazione Sabatini, archivio CGL Reggio Emilia, archivio Fion Nazionale, un sacco, allora, di cose, mettiamo insieme uno stipendio in tanti modi. Iconograficamente, negli anni 50 ancora, se tu vedi le foto degli operai degli anni 50, sembrano dei nostri nonni, gente con il cappello, il tabarro, la giacca di coso flanella. Nel 60, già io penso a luglio 60 a Reggio Emilia, i famosi giovani con le, diciamo, maglietta a strisce. Questa cosa cambia, e dico questo perché quando poi ti spieghi l'operaio massa, cioè perché il 69 a Torino, a Milano, giovani immigrati dal sud che si integrano in una metropoli in cui non hanno famiglia, c'è una sperimentazione culturale, politica, sociale di vario tipo, e questo si vede anche dal punto di vista iconografico. Questo vuol dire che la classe operaia, certo che era in piazza ed è stata protagonista, ma è stata protagonista anche in forme nuove, in momenti cruciali della vita del nostro paese, e non solo partendo dal proprio contratto, cioè molto spesso i contratti servivano per piattaforme rivendicative a livello generale, e lì si spiega la cosa della formazione, il tema della formazione non legata alla formazione professionale o alla formazione voluta dall'azienda, ma proprio come elemento di crescita culturale indipendente dei singoli lavoratori. Dei singoli lavoratori, ma gestito collettivamente, perché l'ho detto prima, gestivano i consigli di fabbrica. Quindi c'è molto spesso i metalmeccanici anticipano le tendenze di questo paese, sono in piazza, ma sicuramente il ciclo che si apre con gli anni 60 è un ciclo nuovo che vede un nuovo protagonismo operaio, e lasciamelo dire, anche un tema di autonomia differente dalla politica rispetto a prima, ecco, questo sì. La seconda parte però si parla anche degli anni 80, certo. Dopo la sconfitta di Mirafiori, anche le 150 ore cambiano, perché c'è una richiesta di formazione professionale, cambiamento, arriva l'informatica, anche Davide ha parlato di questo, questo aspetto qui è importante. Assolutamente sì, da un punto di vista di istituto contrattuale le 150 ore non dovrebbero essere utilizzate per la formazione professionale, l'abbiamo detto. Questo elemento che ha tirato fuori diciamo Eloisa Betti, che ha studiato gli anni 80 utilizzando l'archivio storico FIOM, in realtà ci dicono un po' che il sindacato contraddice queste declaratorie, ma per un motivo molto semplice: tenta di salvare, come spesso accade nella storia di questo paese, tenta di salvare posti di lavoro. In un contesto in cui fossimo in un paese, no, in cui si pianificano le cose, tipo Germania, probabilmente avresti avuto già a fine degli anni 70, quando sapevi che i calcolatori, i computer avrebbero invaso il mercato, avresti avuto grandi cabine di, diciamo, regia nazionali con università, imprese, enti locali per dire come introduciamo i calcolatori. Dal momento che questa cosa non c'è stata, il sindacato tenta anche con la formazione, con le 150 ore di salvare i posti e di rendere il più possibile omogeneo uno sviluppo che altrimenti avrebbe cancellato posti, molto probabilmente. L'ultima cosa che ti chiedo, oggi, il futuro, le 150 ore di oggi, siamo in situazione un po' simile agli anni 80, perché abbiamo davanti a noi la sfida della digitalizzazione, molti lavoratori oggi, e anche la transizione ecologica. Ranieri ha fatto un appello, la formazione continua, serve una legge, serve un impegno del sindacato che deve essere confederale, in questo caso abbiamo bisogno della scuola, perché se vogliamo una formazione continua. Su questo cosa vogliamo fare? No, fai la domanda, non è la persona più adatta, perché io mi occupo della parte memoria, però diciamo che ti posso dire questo: sicuramente quello che sono state le 150 ore sono stato un grande protagonismo di classe, una grande emancipazione di classe. Quello che non si può perdere oggi, senza scimmiottare, senza pensare di ritornare a cose passate, che insomma è quello stesso protagonismo, cioè non si può pensare di fare la transizione ecologica o di fare innovazione in un contesto digitalizzato, in un contesto di, si direbbe, high skilled, cioè ormai sì. insomma no, il lavoratore, poi per carità ci sono anche le fonderie in cui purtroppo si fonde, sì. Ecco, okay. Però benissimo, oggi il lavoro anche metalmeccanico non è più quello di 50 anni fa. È impensabile fare questo tipo di transizione di processi senza tenere dentro i lavoratori, le organizzazioni sindacali e il protagonismo anche culturale dei, insomma, lavoratori. Per cui sugli strumenti tecnici non so risponderti, okay. Però è ovvio, immagino che il seminario di oggi, quando l'abbiamo pensato con la FIOM nazionale e con la Fondazione Di Vittorio, è perché nella piattaforma dei punto meccanici, che verrà messa in piedi nei prossimi mesi, questo punto della formazione individuale e della formazione collettiva sarà tenuto in gran conto. Immagino che anche FIOM e WILM siano sulla stessa linea da questo punto di vista, e quindi insomma ritornare a un protagonismo operaio, perché le grandi transizioni non si fanno senza il protagonismo di chi, diciamo, lavora. Ecco. Torneremo protagonisti. Ciao, grazie. Ciao, Tommaso. Grazie a voi. Came to get down, I came to get down. It's a pig cause a pig is a cop, or better yet, a Terminator. Like Arnold Schwarzenegger, trying to play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Allora, avete ascoltato un pezzo che a me piace da morire, avete ascoltato l'intervista di Tommaso Cerusici, è stato bravissimo, ha spiegato appieno quel seminario, in breve, pochi minuti è riuscito a raccontare le parti più importanti, è stato un seminario lunghissimo chiaramente, abbiamo sintetizzato gli aspetti che più ci interessavano, che più insomma ci hanno colpito entrambi, ma soprattutto quello che ha colpito me. Adesso noi potremmo dire tante altre cose su quel seminario, però io penso che sono state dette le cose più importanti. Ora, quest'anno, nel 2024, la programmazione parte con questo seminario, però presto dovremo affrontare di nuovo tutta una serie di questioni. Siamo a Bologna, parliamo di Manetti Marelli, c'è la questione della Perla, adesso se avete sentito dai telegiornali, avete letto sui giornali, la situazione è abbastanza tesa, ci sono degli spiragli per quanto riguarda la Manetti Marelli, poi affronteremo con i compagni, c'è stato un accordo importantissimo in Lamborghini, ne parleremo, dunque avremo una serie di puntate in cui parleremo di accordi che sono veramente incredibili, sono forse in Europa ce ne sono pochissimi accordi come quello Lamborghini, poi ci sono le questioni di credito, ma noi abbiamo un'Italia metalmeccanica che in questo momento è veramente in una situazione assurda. Abbiamo delle aziende, pochissime purtroppo, che fanno degli accordi molto buoni, vedi Lamborghini, cui si va verso alcuni aspetti importanti, e abbiamo una situazione di crisi, perché abbiamo una guerra. No, ne abbiamo una sola, ne abbiamo due. E affronteremo anche la questione della guerra, perché è fondamentale. I lavoratori, noi sulla nostra pelle stiamo vivendo questa guerra. Non come succede certamente ai lavoratori russi e ucraini, ma indirettamente la stiamo vivendo. E stiamo vedendo quello che succede anche in Palestina, e quello che sta accadendo nel Mar Rosso influenzerà tantissimo l'economia europea e influenzerà tantissimo la situazione economica delle industrie, dei luoghi di lavoro, di tutta l'industria e anche del resto. Affronteremo tutti questi argomenti nel 2024, abbiamo un sacco di sfide importanti che ci saranno, ci aspettiamo ancora che Landini porti avanti quello che ha detto negli ultimi scioperi, non dovevamo fermarci, vediamo cosa accadrà in questo inverno inoltrato, se si va avanti contro questo governo che ha visto la finanziaria, parleremo anche di questo, di quello, c'è la situazione incredibile in cui questo governo ha fatto una finanziaria di merda, eppure la sta proponendo come qualcosa di favorevole per i lavoratori, non cioè veramente, una volta si diceva non la faccio come il culo, questa volta hanno peggiorato la situazione, secondo me, cioè proprio non hanno proprio faccia. Detto questo, io vi lascio con una notizia importante, avete letto che la GKN insomma sono riusciti a fermare i licenziamenti, ci sono un sacco di iniziative della GKN a teatro a Bologna, mi raccomando andate a seguire, andate a vedere gli spettacoli, è importante, e ci sono dei vari appuntamenti con la GKN, i compagni della GKN insomma adesso dopo quello che è successo potranno comunque sviluppare il loro progetto, speriamo che venga sviluppato appieno, e con loro vi lasciamo con il loro inno insorgiamo Tenoremo Fire, e ci sentiamo alla prossima puntata, ciao ciao compagni, alla lotta. I ventenni bui a volte capitano nella storia, ma c'è un giorno in cui finiscono, e io non so se questo è il giorno, io so che sorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi, insorgiamo insieme.